tendenzialmente non attacco brighe, sto tra le righe. Rispetto agli schemi, non do problemi, non dico devi, accetto ciò in cui tu credi. Ma qualcuno insiste, cerca di mettermi fuori, con le spalle al muro, mi vuoi duro? Ok, qui ti inculo e ti curo. Non andrò leggero, essendo fiero, ti meno, sei stato scemo. Non è la storiella del bimbo leso che si ribella nel limbo. Teso di budella lindo, spingo l'aria da modello che mi fa respirare stretto, costretto in atteggiamenti di rispetto che ammetto investo volentieri ma retesto quando dovrei andare di petto, colpendo gli stolti con rabbia e veleni. Poveri scemi, non siate né fieri, vi faccio vivere i sogni più neri. Pazzo mi rompi, ti spezzo, non credi, cazzo mi parli di amici sinceri. Sorriso mi vesto, chi mi prende per il cesto non colpisco, gioco, non protesto. Ma quando metti in mezzo le persone che amo mi incazzo, stramazzo, il mio posto è preso, non me sconnesso, con cervello denso non penso. Agisco l'impulso, insulso, convulso, sarei espulso. Se arrabbiarsi fosse un reato, sarei fuori dal creato in ogni limite. Ma non è un crimine, diamine, so dire quello che credo, sarò sincero. Vorrei accendere un cero e dire che c'ero. Quando ti esploso il culo eri sul muro col muso contuso di botte. Insaccato mentre te cauto eri legato al lato dell'auto, fermi in sosta. Una supposta realizzato, la verità supposta e urlato. Se che cagò di non sprecare il fiato, sei invidioso amico peccato. Lusingato non ho peccato, sentite i discorsi che hai fatto. Non ti ho più visto all'impatto, il sorriso graffiato ad un tratto. Lo sguardo lontano più astratto, respiro contratto. La rabbia mi ha sopraffatto, distrutto ma ti ho disfatto. Infatti il gallo ora ti spenno mentre catto. Mefisto, me ne infischio, sei fatto un liscio, giochi a tuo rischio. Sul disco insisto col mio pensiero, sei stronzo è ciò che vedo. Hai sparlato acidamente in vano su quale che amo ed ho cambiato tono. Hai chiesto perdono e già ti ho perdonato, maleducato. Disperato, emarginato, sei retestato, l'hai meritato. Ma non sei da me condannato, non è il nostro finire per dire. Non vorrei inferire ulteriormente, ma ultimamente ti ho visto senza gente. Conseguente al tuo modo per gli altri, non alterarti. Stai con te, con st'altri, e cerca di equilibrarti. E non fare lo squilibrato, scazzato, contro il vicino intorto. Incorpa il colpo per tagliare corto il tempo che non ti prende. E questo rompe perché devi essere d'accordo, in sintonia, in armonia come le note di un accordo. Assieme a noi, con i pensieri tuoi, perché davvero puoi, senza darci contro poi. E se vuoi, possiamo ricominciare, dai. Allora sei ancora con noi?